Un giornale che morisce la verità, ma chi scrive songa sempre chi là, che hanno ritto fino a poco tempo fa, chi sto che è napolitano non ce fa. Sta s'aiuto non mi ha fatto mai tremare, non mi sono fermata a popolarità. Sono canzone nata senza una bugia, raccontare la vita vostra, vita mia. C'è fatta mai vada vanda, io studiavo pianoforte per sonna, quando la carta c'è stracciata per trua, due parole belle per poter cantare, tutti i sacrifici e sapo solo Dio, l'indelietta che non era casa mia, a rubanne tempi amore figlio mio, sono rimasto e c'è una volta soltantia. Mai non può cagna niente e te fa male assai. Da tutto quest'amore non finisce mai, tieni a mente i pensieri. Io, dopo la strada, guardare in due specchi tutta gelosia, ma continuo a camminare la strada mia, più assai, più assai. Quel dialetto un po' deriso di anni fa, mo è una lingua che ogni artista può cantare. Un cuore era Sicilia, Lombardia, e certezza non è più filosofia. Mi ricordo ancora di non dirgli mai, se rimane quella frase non ci vai. Fai Sanremo ma per forza cancella. Si stasera t'avessa vasà. Mai, non può cagna niente e te fa male assai. Da tutto quest'amore non finisce mai, tieni a mente i pensieri. Io, dopo l'autostrada, guardare in due specchi tutta gelosia, ma continuo a camminare la strada mia, più assai, più assai. Tiena a mente i pensieri. Io, goppa l'autostrada, guardare in due specchi tutta gelosia, ma continuo a camminare la strada mia, più assai, più assai. Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi là che va a parlare, avvelene e caramelle che bugia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia, mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.